riceve solo una piccola mentina sottilissima. Vaffanculo, sono pieno. Oh, monsieur. È solo una spoglia sottilissima. Senta, non potrei mangiare niente altro, sono proprio pieno. Ma quanti forti. Oh, monsieur, una sola. Oh, va bene, solo una. Solo una, monsieur. E voilà. Buon Thank you. Cranberry, Boucher à la Gauloise, Darth Vader, Marmite Lyonnaise, Soupe Colbert, Gelée de Bouillon, Bouillon Royal, Crêpe Valeska à la sauce suprême. Rigatoni. Oh. A uno ci vive sopra, dunque. Questa è difficile. È mitica. È stata fatta da tutti. È una famiglia, una delle poche. Dai, ho fatto. Stagione, torta della nonna tiramisù, servizio incluso, in aggiunta al menù, giovedì gnocchi, sabato, tritto. Thank you. baby, fine. Fa fine. Arriva. Ho una fame. Signore. Ah, ma che ti ci hanno messo delle foto. Signora. Cristian? Senta, ma è questo che ho ordinato? Sì, è un risotto. Su speciale ricette che mio fratello e io abbiamo portato dall'Italia. È squisito, lo assaggi. Ci ha fatto così tanto perché siete andati a prendere in Italia? Sì, non lo so, ma le vale la pena se sentirà. Ci volete ancora un po' di formaggio? No, niente. E io sì, tanto. Ah sì, a lui piace. Lo formaggio. Senta, non aveva detto che questo era riso con frutti di mare? Sì. Sì? Quello è fatto con riso arborio italiano, lo migliore. Ancora. E poi ci sta i gamberi, le vongole, le telline. E dove? Io non vedo niente che assomiglia a un gambero o una vongola. Qui c'è solo... Insomma, non è certo quello che mi aspettavo, ecco. Però c'è un contorno di spaghetti con questo, vero? Che è? Cioè, no, credevo che tutti i secondi avessero per contorno gli spaghetti. Qualcuno sì, però, vedete, lo risotto è riso, e cioè amido. E non si accoglie per niente con la pasta, no, non ci sta buono. Ma io... Tesoro, ordina un contorno di spaghetti, tutto qua. Le mangerò io le polpette. Sì, le dia a lui le polpette. Beh, gli spaghetti qua vanno senza le polpette. I spaghetti non vengono con le polpette? No, a volte gli spaghetti vengono da soli. Va bene, allora vuol dire che ordineremo anche un contorno di polpette. Per me? No, a me va bene questo, mangiamo. D'accordo, allora niente polpette, solo un contorno di spaghetti. Primo, ti prego, solo per favore. Voglio sapere perché. Fammelo un contorno di spaghetti, per favore. Secondo, io voglio sapere di chi sono. La signora di un risotto. Chi è? E perché? Don Grassano, ma che risacchi tu falla? Stazzi, insomma. Per faceva? Fermi. Ma come mangiare qua in America? Cioè, io parla io con quella. Ma qualche pizza deve fare? Dire la cliente quello che deve mangiare, eh? Lei è questo che vuole, è questo che la cliente ha ordinato. Faglielo, falle la pasta, fagliele pasta, falle la pasta, che vuole? Ma com'è possibile? Amido e carboidrati. Tanto male che gli facciano un bello pure di patata allora. Primo, sente, no, papà, perché sono i primi clienti che vedete in tua ora. Abbiamo le tubature. No, che funziona. Quella è una criminale. Io ci voglio patate. Mezzogiorno, mezzogiorno di cuoco, e vedendo la carne montana che stringo, allè, vengono tutti a mangiare con gringo. Mangiate montana e carne ben scelta, così in gelatina e pratica svelta, in tipo normale o esportazione, in casa all'aperto, in ogni occasione, così nutriente, appetibile, sana, e carne ben scelta, e carne montana. Poi ce l'avevamo infilata in cervello, sai? Non è che avevamo il resto, però non avevamo mangiato la vitamina. Prego! è un mietitore, il signor della morte. Io sono il Cristo mietitore. Hai questo drink, signor mamma? Su, si siede. Stavamo giusto parlando di alcuni dei brutti problemi che affliggono l'umanità. Preferirete del bianco? Sì, mi dispiace, ma non abbiamo birra. La cacciottina è deliziosa. Io non sono di questo mondo. Oh, santo cielo. Io sono la morte. Io sono venuto per voi. Vuol dire? Per portarvi via. È questo il mio scopo. Io sono la morte. Ma è questo è triste un po' avanzato, no? Voi siete morti ormai, perciò state zitti. Cosa? Morti. Tutti noi? Sì, tutti voi. Come possiamo essere morti tutti quanti insieme? La mosse di salmone. Cara, non avrei mica usato del salmone in scatola. Io mi sento terribilmente imbarazzata. E che bei frutti, grossi, ricchi, pieni. Il carciofo, un alimento genuino, così ricco e apprezzato da tutti. Me l'aspettavo. Un cinar. Io coltivo i carciofi, vuole che io non beva il cinar. Cinar, l'aperitivo a base di carciofo. Un amaro? Un cinar liscio, grazie. Bevuto liscio è un ottimo amaro. Cinar, una scelta naturale. Chiedono queste cose agghiaccianti, si cambiano e altre penso le conoscete tutte quante, a volte a voi, e se in caso le conoscete dopo ci vediamo dalla massa e fagioli, dalla massa e fagioli che verrà servita la ci saranno due pietanze dopo il sette, tra un sette e un altro, mi hanno detto, non lo so, continueremo anche su questo.